Siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farvi scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se questo fosse vero amore, vero amore, tu non mi lasceresti mai. Non c'è bisogno di parole per spiegare, no. Tengo a precisare proprio qui in quest'aula di tribunale e una volta per tutte che il mio è stato un sentimento d'amore vero nei confronti di Silvio Berlusconi. Fui da subito molto affascinata dalla personalità e dal grande carisma che esercitava su di me il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nacque così da prima un rapporto di grande amicizia, che successivamente sfociò in una relazione sentimentale. La nostra relazione, che io ritenni sempre esclusiva, si concluse sul finire di quell'anno, anche se i rapporti continuarono ad essere di straordinario affetto e grande amicizia. Beh, quante scoperte che si fanno, caro Parenzo, eh? Quante scoperte. L'amore che trionfa, l'amore che trionfa su tutto. Quello di Nicole Minetti nei confronti di Berlusconi. Poi, ovviamente, siamo nel campo della difesa processuale, siamo nel campo delle testimonianze. Il malcelato moralismo dell'accusa. Sentila, Nicole. Ritengo che l'accusa si fondi solo su un teorema, privo della indicazione di concreti fatti di reato, fondato su un malcelato moralismo. Non è certamente amore quello che sprizzava ieri dalle parole di Carlo Giovanardi nei confronti di Cucchi, ma io ripeto qui per l'ennesima volta che Carlo Giovanardi, attaccato da tutti i media, attaccato, anche offeso, anche insultato via il web, sì, lo voglio dire, via web, ha tutto il diritto di dire quello che dice e non dice niente di scandaloso in questo caso. Difende una sentenza. Avete capito voi che difendete sempre le sentenze? Il signor Carlo Giovanardi difende una sentenza. Voi del pensiero unico sulla vicenda Cucchi, difende una sentenza pronunciata da giudici, in questo caso anche giudici popolari, cioè cittadini. Chi è dalla parte della giustizia in questo caso? Giovanardi o la famiglia Cucchi? Giovanardi. È morto effettivamente in condizioni che le portano testimoniate agghiaccianti. Quei segni sono il risultato finale di questa mancanza di cure che ha avuto. Sono derivanti dallo stato di mancanza di nutrizione, anche la pelle mentale, in cui è stato lasciato in quei giorni, compreso le orbite negli occhi. Non c'entra niente con le botte, ma non lo dico io, lo dicono gli esperti che sono stati chiamati dalla pubblica accusa. Io non capisco questa cosa. Ilaria Cucchi, che ha tutto il diritto ovviamente di essere arrabbiata, incazzata, dice: gli italiani non si riconoscono nella sentenza. Ma ha fatto un sondaggio? C'è una indagine sociologica? C'è qualcosa in più? Ma non si capisce questa cosa. Cioè, è una berlusconata, diciamo la verità. È una berlusconata, sì o no? Ammettilo, Parenzo. È una cosa alla Berlusconi. Ma stiamo parlando Ilaria Cucchi. Fammi sentire Ilaria Cucchi. E avete sentito le urla in aula? Le sentenze vengono pronunciate in nome del popolo italiano. Il popolo italiano non si riconosce in questa sentenza. Il popolo italiano troppo spesso non si riconosce in questa giustizia, che è una giustizia forte con i deboli e deboli con i forti. Oh, abbiamo già un grandissimo ospite qui tra noi, però voglio farvi sentire Matteo Renzi come mette, come dire, il sigillo, un sigillo definitivo sulla questione dei saggi, chiamandoli grulli, cioè basta un grullo per cambiare la Costituzione. Senti. La commissione di saggi serve per dire che cosa? Cose che già sappiamo, cioè la commissione di saggi ci dirà che bisogna cambiare la burocrazia in Italia o che c'è bisogno di un saggio, basta uno grullo per dirlo, eh? Cioè non c'è bisogno di uno saggio per dire che va cambiata la burocrazia, basta anche uno non saggio. Forse si riferiva ai saggi di prima. Intanto dopo vi faremo la cronaca puntuale di quello che avviene nel Movimento 5 Stelle, che è una roba che Ridolini al confronto è un, così, un dilettante. Ma abbiamo con noi il grandissimo, lo ringraziamo per essere qui, Paolo Poli, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Ma sai, un vecchietto non si chiede come sta, perché tutti dicono c'è un dolore che mi parte da destra, poi mi gira intorno e sbuca da sinistra, ma io mi contento, non c'ho, c'ho i piedi un po' pieni di patate e di fagioli che con la primavera germogliano. Senta, innanzitutto lei, vabbè, poco tempo fa ha scritto un libro, è ancora in tournée, è attivissimo. No, non l'ho scritto un libro. Sono tutte interviste, preparate sì. Il coccodrillo, capito? Come preparano il coccodrillo? Paolo? Perché c'ho un piede nell'aldilà. Ma cioè, beh, lei mi sembra vivo e vegeto e combatte come un leone, o sbaglio? Ma no, ma quale leone? No. Il leone è quello di Walt Disney, tutti finti per i bambini ormai. Senta, Poli, lei ha detto proprio in questo libro, credo, o non so dove, sono vecchio, mi piscio sulle scarpe e ancora giro l'Italia cantando. Come si piscia sulle scarpe? No? Per dire. Ah, per certo, dire, era un modo di dire. Ma no, io non sono un sociologo, sicché non mi dovete prendere così, con misericordia. No, che misericordia. Che poi non è interessante. La famosa saggezza dei vecchi non è vero nulla. È una stupidaggine. Pensa ai vecchi di Troia che stavano a sedere sugli spalti e vedono passare Elena di Chasi, che valsa la pena una così lunga guerra per una così bella donna. Pensa che imbecilli. Però io sono sempre dell'idea, Poli, che in realtà questo giovanilismo di adesso, anche nella politica, in cui si dice sono meglio i giovani dei vecchi, sia tutta una stupidità. Sì, rottamare, vabbè. Lei che pensa della rottamazione? Non lo so, non lo so. Sono vecchi intelligenti, esatto, e giovani imbecilli. Ecco, non vuol dire, esattamente, non è legato con la biologia. Ecco, ma a lei Renzi piace? Boh. Non lo so. L'ho visto ieri. Ieri mi trovavo nel palazzo del governo a Firenze, il palazzo vecchio. Sì. Che è vecchio, insomma. Per essere vecchio è vecchio, sì. Ci sono bellissime sale con affreschi. Sì. Forse anche con un ricordo di Leonardo, che chissà che con la tecnica moderna non si potesse riesumare dalla parete, insomma. E così gli ho stretto la mano ed è belloccio a vederlo dal vivo. Le piace come uomo, diciamo? No, mi frega nulla, io ho fatto di meglio e di peggio. Di meglio e di peggio. Poi, però mi piacciono i mostri, no? Mi come i mostri? Gente bella. Ah no, non le piace Renzi come uomo? Perché? Beh, che ne alla so. Mia età ormai siamo al di sopra. No, alla sua età d'accordo, anche se poi non mai dire mai, mai dire mai. Incontra con castità, diceva il Petrarca. Vabbè, ma insomma, quando lei poteva, diciamo, non so quando, perché secondo me può anche adesso. Renzi com'era? Com'è a vedere? Più Raul Bova, per dire. Ah, meglio Raul Bova, eh. Sì. Eppure tutti lo considerano un bell'uomo, uno dei più bei politici in circolazione, il signor Renzi. Ma sai, bisogna buttarsi sul mercato. E si trova sempre un compratore. Ah, dice lei così, eh? Sì, sì. Senta, ma i politici non l'hanno mai attratta come uomini? No. No, non c'è proprio nessun bello, secondo me. No, per carità, noi eravamo abituati che c'era Mussolini. Sì. Pensa che si metteva a torso nudo, sì, una faccia tosta, faceva finta di lavorare e di battere il grano, sì, con una trippa. Allora? E allora si davano a bere e quello era il bello, capito? Vabbè, dunque, niente di cosa. Un furbo Napoleone che dal Canova si faceva migliorare e si faceva fare una statua antica romana, ecco. Senta Poli, ma io le chiedo una cosa, ma il Gay Pride che inizia tra poco, no? Che effetto le fa il Gay Pride? No, sono contento che ci vada la Boldrini, che è bella, non ha bisogno della maschera. E allora? Il carnevale non mi interessa. È una carnevalata, questa, dice lei, no? Questa finta gioia. Ma poverini, sai, beh, come poverini? Delle persone deboli, sì, che non amano stare soli, sì, e si sposino, va bene così. Però a lei del mare... Ma vanno dal prete a chiedere il permesso... Per inchiappettarsi, no, davvero. No, ma quello no, certamente. Però, scusa, lei per il matrimonio non gliene frega nulla del matrimonio gay. E anche di quello con la donna me ne frega nulla. Figuriamoci quello tra due uomini. Figuriamoci quello tra due uomini. Dunque, tutte queste persone, tutta questa discussione. Benissimo. Sì, certo. Se loro sono più sereni così, va bene. Avete i bambini, io poi li affiderei a chiunque. Meglio un assassino piuttosto che l'orfanotrofio. Dunque figuriamoci un omosessuale, dice lei, no? Va benissimo, se io ho due babbi, va bene, no? Oppure due mamme. Ma perché, perché per esempio, dunque tutte queste discussioni sulle unioni omosessuali, tutte cose ridicole? Ma a me mi paiono così, inutili. Inutili, perché chi voleva fare bel fatto, sta a sentire la carta bollata, capisci? Bene, traffico, torniamo subito. Paolo Poli con noi. La Zanzara. E rischiamo di fare veramente una guerra tra generazioni. È questo l'impatto! E questi qui hanno 80 anni, 70 anni, si raddoppiano le carriere, vogliono la sicurezza, vogliono il presidenzialismo, devono andare a fanculo tutti! Siamo con Paolo Poli, che non ha bisogno di presentazioni. Poli, le piace Grillo? Io sono qui. Le piace Grillo? Ma no, a me non l'ho conosciuto giovane e non mi faceva ridere un granché. E adesso? Adesso magari fa più ridere, non lo so. Cioè fa più ridere adesso di prima, dice lei? Chi lo sa, io non lo seguo molto. Non c'ho il televisore, sai? Io quando lavoro la sera sto in teatro, se no vo a letto con un libro. Però Balzac, preferibilmente. Beh, Balzac è un'altra cosa, certo. Però è curiosa questa cosa. Secondo lei è più, come dire, faceva più ridere, fa più ridere adesso di prima? Che c'è, Parenzo? Dimmi. No, volevo chiedere, intanto omaggiare il maestro Poli, che ho conosciuto. Non abbiamo tempo, Davide, vai subito. Non si può omaggiare, ma volevo dirgli solo questo. No, perché non gliene frega niente a lui di essere omaggiato, per cui... Beh, lui mi ha anche corteggiato a teatro una volta quando sono andato a vederlo a Firenze, l'asino d'oro di Apuleia. Ma se sei brutto, ma sei brutto come una fame. Ma tu sei brutto. No, lui mi ha corteggiato, mi ha detto che era un ragazzo carino, ero a Firenze, l'asino d'oro di Apuleia era lo spettacolo in scena, ero più giovane... E mi fece una battuta straordinaria e si mise a cantare "Ai romani piaceva la biga", con questo gioco della lettiga. La biga era solo due rose, la lettiga aveva quattro portatori, era più scomoda, si capisce. Però volevo chiedergli questo, se questi fatti dell'attualità, il processo Ruby ad esempio, questo straordinario... Segue, no, le cronache del processo a Berlusconi? No, non mi importa, sai, lui certo... È da tanto che doveva essere processato, e non per Ruby, ma per cose più gravi. Cioè? Cioè per altre cose, lei dice, Ruby è una roba... Certo, lui sa, i suoi affari non sono tutti così trasparenti. Dunque, diciamo... Almeno questa Ruby si capisce, insomma, li garbavano giovani. Dunque non va processato per questo, dice lei? No, che io non sono un giudice, a me frega nulla, voglio dire. Senta, ma tutti questi parlamentari, no? Adesso ce ne sono quattro, qualcuno in più rispetto a prima ce n'era solo una, che entrano in Parlamento sostanzialmente in quota gay, diciamo la verità, insomma, perché militanti, eccetera, che effetto le fanno? Ma io seguo poco, leggo il giornale dal parrucchiere, ma la televisione non... Ora per esempio, quando vi lascio, sono le 19, c'è un giornale radio. Sì. Un TG, come si dice. Sì, adesso. Un TG, sì, un TG. Forse oggi lo guarderò. Ah, oggi. Dunque. Grazie a mostra. Scusi un attimo, ma la prostituzione, per esempio, non andrebbe legalizzata, Poli? Facciamola, vediamo. A me mi andava bene anche la vecchia prostituzione. No, la prostituzione, dico, la prostituzione. Ah, la prostituzione? Sì. Ma no, non lo so. E sai che lo Stato pigliasse la percentuale sulle povere troie non mi pareva giusto, ecco. Beh, insomma, magari sarebbe... Mercato libero lascerei, la droga libera, le troie libere, ma che vuoi? Ah, droga libera e troie libere. Tu vorresti mettere di nuovo i casini? Beh, non sarebbe male, ma casini diversi ovviamente, non come quelli di prima. Legalizzare... È uguale, sono tutti uguali, dove c'è il meretricio e dove c'è... Ma... Invece prostituzione libera e droga libera? Io sì. Sì, sì, no, può essere un'idea, per carità. Ma è vero che lei non sopporta quando qualcuno le chiede del matrimonio gay, proprio una cosa che non sopporta? No, ma che era un tempo così, dissi scherzosamente. Poi, sai, c'è sempre un giornalista scarso che prende le parole alla lettera. Ma che poi... Vabbè, quelli sono... No, a me non mi piace essere sposato, io adoro la solitudine, sì. Come diceva Giordano Bruno, era un frate. Sì. Beata solitudo, vera beatitudo. Lei come scoprì di essere omosessuale? Perché lei raccontò una volta al Corriere della Sera un episodio fantastico che riguarda, credo, i gorilla o non mi ricordo che cosa, o il fornaio... No, parlavo di King Kong. Ah, di King Kong, sì, com'era la storia? Era uno scimmione, il mio primo amore, sì, così. Fai sciocchezze, cosa vuoi? Cioè lei disse una volta, sapevo fin dall'inizio di essere gay, entrai in una panetteria e vidi che mi garbava il fornaio, andai al cinema, davano King Kong, avevo 5 anni e vidi che mi garbava pure il gorilla, il dado era tratto. Certo, sì, ma sai, non è male. Mia madre era una donna intelligente, diceva, il bambino è perfetto, sbagliata forse è la società, che l'ha detto Rousseau. Grazie, grazie a Paolo Poli, a presto, giornale radio. Auguri buoni, ciao, arrivederci, ciao, ciao. Buon lavoro. Love of my life. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Io francamente non capisco, caro Parenzo, perché mi massacrano per le opinioni che ho espresso sulla vicenda Giovanardi Cucchi. Francamente non lo capisco. Non lo capisco. Cioè, è una cosa patetica, ridicola. Cioè, io non sono d'accordo con Giovanardi su tutto, ovviamente. Ma su questa cosa qui, penso che Giovanardi, ovviamente non è che rispetta tutte le sentenze. In questo caso, ho capito, d'accordo, ma ogni sentenza si può discutere. Io non contesto il fatto che si può criticare una sentenza. Ma in questo caso qui, lui dice, insomma, io seguo la sentenza, gli altri mi massacrano. Ma sentiamo ancora un po' di Giovanardi, così facciamo arrabbiare un po' di gente. Ma sono vittime come Cucchi, dunque. Certo che sono vittima, ma io non sono dubbio che le tragedie di custodia che non hanno fatto come la sentenza ha dimostrato assolutamente nulla, hanno passato 3 anni di inferno. Ci sono 3 poveri agenti di custodia che forse con le loro famiglie stasera festeggeranno l'uscita da un incubo. Tre poveri cristi a 1200 euro. Mi sono limitato a esprime soddisfazione per 3 poveri cristi, 3 agenti di custodia a 1200 euro, forse 1200 euro al mese, che hanno vissuto 4 anni di inferno finché una corte d'assise, cioè fatta anche da giudici cittadini, no? Non solo da magistrati, li ha riconosciuti innocenti. Ma oggi, come al solito, trionfano le parole di Grillo contro il Parlamento. Cronache marziane dal mondo grillino, così bisognerebbe intitolare la giornata di oggi. La notizia numero 1, Parenzo, questo Parlamento non serve a nulla, è iniziato così. O lo seppelliamo o lo rifondiamo. Dovete trovarlo innanzitutto il Parlamento, perché qualcuno si era perso nei giorni scorsi. Bravo. L'ex capogruppo, esatto. Crimi, trovatelo il Parlamento prima di seppellirlo oppure rifondarlo. Poi ha parlato di tomba maleodorante, ma non ci sono dentro anche 160 grillini? Cioè, i 160 grillini sono gli unici che si salvano all'interno di una tomba maleodorante? Perché affonda il becco su di me. Ai, ai. Poi, essendo un comico e parlando in questo modo, chi si indigna per le parole, perché offendono il Parlamento, è doppiamente ridicolo. Poi ci sono due grillini, Labriola e Furnari, così si chiamano, che sono andati via dal gruppo, vengono insultati, merde, finalmente potranno prendere tutti i soldi che vogliono, vengono ricoperti di insulti nei vari blog, eccetera, eccetera. E poi ci sono due deputati, questa è la terza notizia, è veramente una cosa da ridolini, una cosa da oggi le comiche. Due deputati che si chiamano Carlo Sibilia e Paolo Bernini, te lo ricordi quello è Paolo Bernini, quello dei microchip? Carlo Sibilia invece è quello del Bilderberg in Parlamento. Questi due, Sibilia e Bernini, sono andati a Londra. A Londra, certo. Sono andati a Londra. Sono andati a rompere i coglioni a Londra, non c'è dubbio. Al Bilderberg. Al Bilderberg. Albergo stupendo, peraltro. Bellissimo, mi hanno detto. Albergo stupendo. Sono andati a capire qualcosa del Bilderberg. Vogliamo sapere. Ma cosa devi sapere? Ci andava anche Borghezio davanti al Bilderberg. No, ma a parte che c'era, non sanno un cazzo, perché in realtà c'è, quest'anno era anche, c'era anche una sorta di accredito. Quindi non è sì, che è tutto trasparente. Le persone sono, no, sono accreditate. Non succede nulla. La gente si riunisce. Nulla. Parleranno dei cazzi loro, parleranno di come va il mondo, ci saranno relazioni varie che vengono. No, ma no, tu immaginati la scena. Io mi sono immaginato la scena perché ho visto anche le foto di questi due che sono andati lì a Londra. Sì, no? Sì, già sì. Non trovano il Parlamento, in più vanno a Londra, sbarcano a Londra, sì. E dicono: "We are Movement of Five Stars Grillo", no? Dicono sì, davanti all'albergo, sì, davanti all'albergo. Davanti all'albergo, gli inglesi, ci sono questi potenti della terra che si affacciano da questo palazzo meraviglioso, vestiti in modo elegante. Sorseggiando del prosecco e li guardano dall'alto e dicono: "Oh, what is Grillo? What is disgusting, guys?" Cioè proprio dall'alto li guardano, no? Dice: "Questi qui con le bandiere, vogliamo sapere la verità sul Bilderberg. Oh, what is this noise?" Cos'è questo rumore, dicono, no? Guardando dall'alto di questo albergo. Poi arriva la polizia inglese e li porta via. Titoli del TG3. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Grillo, il Parlamento tomba maleodorante, o lo seppelliamo o lo rifondiamo. Intanto due deputati lasciano il gruppo 5 Stelle alla Camera. Il mio amore per Silvio è stato un sentimento vero, così Nicole Minetti al processo Rubibis, in cui è imputata con Mora e Fede per induzione alla prostituzione. Cominciano i lavori per la riforma delle istituzioni, obiettivo chiudere in 18 mesi, ma ci sono ancora forti resistenze. Quagliariello, ospite del TG3. Sta per concludersi la campagna elettorale per i ballottaggi, domenica e lunedì al voto, occhi puntati soprattutto sulla sfida romana fra Marino e Alemanno. I giovani industriali, Italia senza speranza, rischia la rivolta, Saccomanni, crisi più difficile e complessa di quella del 1929. Negli Stati Uniti il governo spiava anche le carte di credito e le linee di altre due compagnie telefoniche con milioni di utenti, critiche durissime ad Obama. Slittano da luglio a settembre i quiz di ammissione alle facoltà a numero chiuso, la decisione dopo il crollo di iscrizioni anche del 70%. Non me moleste moschito. L'ingegner De Benedetti contro Grillo e Berlusconi non è una grande novità, voi direte, però sentite che parole usa. È importante vedere che la politica è al posto più alto e il presidenzialismo è al posto più basso. Poi più basso c'è anche Berlusconi e Grillo, ma quelle sono delle malformazioni della società. Grillo e Berlusconi, malformazioni della società. Bisognerebbe riferire all'ingegner De Benedetti, che omaggiamo naturalmente, Parenzo, ingegner De Benedetti, che il PD, che è un partito insomma non lontanissimo da Repubblica, anche se poi è semplicistico dirlo, è al governo con la malformazione della società, però cioè, deve essere sempre chiaro questo concetto. Cioè, da una parte la malformazione della società, Berlusconi, dall'altra un partito che è un riferimento per l'ingegner De Benedetti, che è al governo con la malformazione della società. Però vabbè, lo diciamo così en passant. La De Monticelli, per chi vabbè, non la conosce, fa l'editore. Sì, si fa l'editore, però io lo voglio dire. C'è anche una filosofa che si chiama De Monticelli, che sicuramente la massa di persone che sono all'ascolto con noi non conoscono, i tassisti in questo momento che stanno guidando nel traffico, i camionisti, la signora De Monticelli. Monticelli, così si chiama, De Monticelli, la quale parla di nazismo e di Berlusconi. Sentite. Mi incuriosisce molto questo suo ragionamento, con il quale, anche se uno nel suo ruolo, fra l'altro nel momento in cui è in una situazione istituzionale elevatissima, si dimostra che è un evasore fiscale mostruoso, e tuttavia il popolo lo vuole lo stesso. Voglio dire, con questi ragionamenti, e per carità, facendo le dovute distinzioni, ma si diceva che il popolo aveva voluto, beh, non facciamo nomi, ha voluto anche Hitler, no? Le sentenze non sono abbastanza credibili. Questo è un punto. Le eviterei, professoressa, per la stima che posso avere verso la docente, di non dire queste stupidate, no? No, mi scusi. Il popolo voleva anche Hitler. 800240024. Antonio da Vicenza, buonasera. Sì, pronto? Dica, Antonio. Sì, salve. Vorrei rispondere un attimo, fare un appunto al signor Giovanardi, che ieri ha tanto criticato il povero Crucchi. Sì. E però non ha proposto nulla. Su che cosa? Nulla per rimediare al problema di questi drogati che vanno per le strade e creano disordini, secondo lui. Lui che ha le politiche familiari e lui che ha fatto la fine Giovanardi, cosa propone? Nulla. Nulla, bene, grazie. Tutto Alessio fuori. Da Roma, buonasera. Sì. Alessio, dica. Sì. Sempre su Giovanardi. Vada. Allora, lei diceva, sì, un aspetto del problema lei ha colto, cioè Giovanardi sì, rispetta la sentenza. No, ma in questo caso dico, in questo caso. Sì, è benissimo, in questo caso, però ha detto anche una serie di altre cavolate oltre. Vabbè, ma quello è possibile che abbia detto cavolate, non è quello il punto. Nel senso, questo ragazzo evidentemente non è morto di droga, no? Quindi non ha detto che è morto di droga, ha detto che è morto di malnutrizione. Sì, sì, ma è morto anche di botte, o quantomeno. Ma questo cioè, non è la sentenza, no, che lo dice. Poi, se no, lo vuole dire lei, lo può anche dire. La sentenza assolve gli agenti per insufficienza di prove. Quindi, evidentemente. A parte che l'insufficienza di prove non esiste più, come lei sa. No, ma lei sa che c'è una clausola del codice di procedura penale che comunque. Senta, caro Alessio, o è morto di botte, allora, o è morto quella espressione orrenda dal punto di vista burocratico, che significa sostanzialmente malnutrizione. Allora, Alessio, se lei vuole dire che è morto perché è stato picchiato, no, va benissimo. È morto di botte, però che le botte siano state date, sicuramente la sentenza lo accerterà, soltanto che non individua chi gliel'ha date, questo è il senso della sentenza, e quindi li assolve gli agenti, questo è quello che dirà la sentenza, cioè le botte gliel'hanno date, ma non si sa chi gliel'ha veramente date, anche questo non c'è scritto, perché se l'avessero detto, cioè. No, vabbè, perché non è uscita la motivazione, però vedremo dalla motivazione. Dal dispositivo si. Vabbè, ma qual è questo. Il punto? Non ho capito, qual è il punto? Il punto qual è? Che Giovanardi chiaramente strumentalizza tutto, che vuol dire? Può darsi, fa il politico Giovanardi, non è che fa il giurista. Ma infatti il politico non dovrebbe fare, non si dovrebbe interessare a un caso come questo. Questo io contesto, che il politico non si dovrebbe ma quello interessare. Quello si interessa, si informa, prende le parti spesso della polizia, lo sappiamo. Dopodiché, poi in questo caso ha detto delle cose che poi si ritrovano nella sentenza, appunto. Sì, però abbia pazienza. Cioè ho capito, ma non può essere. Stona. Scusi, si stonerà quello che vuole, ma non mi interessa qui giudicare se stona o non stona. Cioè, io non capisco perché. Quando si deve a ogni costo volere la condanna degli agenti, allora o si decide che questa giuria è comprata dalla polizia penitenziaria o da non so che cosa, che i PM e anche la giuria popolare sono tutti venduti a non si sa quali poteri forti, oppure cioè, evidentemente non ci sono le prove, punto e basta. Alberto dalla provincia di Lodi. Pronto? Dica. Volevo parlare più Giovanardi, per quelle. Dica su Giovanardi. Dunque, lui dice che questi della polizia penitenziaria non picchiano nessuno. No, non ha detto che non picchiano nessuno. Non hanno picchiato, secondo quello che risulta dalla sentenza, non hanno picchiato Cucchi, non hanno provocato la morte di Cucchi. Non ha detto che non picchiano nessuno. Cruciani, bisogna dire a Giovanardi, sì, anche ad andare nei sotterranei dei palazzi di giustizia. E che succede? Mi dica. Come vengono trattate le persone. Vabbè, lei li conosce? Lei li conosce? Io sono stato detenuto per 20 anni. E allora? E allora so come vanno le cose. Allora mi dica, me lo racconti, ci racconti la sua esperienza, come e vanno? Che te racconto, come fai qualche cosa, in 6-7 le pire te massacrano. Adesso poi, da quando hanno fatto la riforma del corpo, prima gli agenti di custodia erano militari e erano discreti. Cioè come sono questi agenti di custodia, come li definisce lei? Gli agenti, questi sono polizia penitenziaria. Sì, la polizia penitenziaria, quello che è. Allora ci sono anche delle brave persone, però, naturalmente, perché ci mancherebbe. Però ci sono certe persone che non sarebbero degne nemmeno di indossare la divisa. Lo dico io, credeme. Borsa, torniamo subito. Siete due bastarde nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltarvi. tanto per cominciare. La Zanzara. Ma lo sai, Parenzo, che Radio Maria manda agli ascoltatori anziani una lettera piuttosto articolata in cui sostanzialmente chiede di fare testamento, tra le altre cose, in favore dell'emittente. Cioè, beh, chiedono di fare testamento in favore dell'emittente. Beh, vabbè, questo. Ma questo che? No, adesso vuoi montare. Diciamo, questo non mi pare una cosa. Vabbè, non sai che cazzo dire, dai. No, non mi sembra una cosa. Ma non sai che dire, non sai che dire, non sai che dire. No, ma non so che dire, posso difendere. Ma non stai difendendo nulla, non articoli. Siccome sono siccome io vengo sempre considerato da te anticlericale, mangiapreti, come mi definisci, in verità. Cioè, Radio Maria manda una lettera a un sacco di famiglie di anziani. Manda una lettera dicendo: volete donare delle cose a questa no, radio? No, fare testamento, fare testamento in favore dell'emittente. Ma non mi pare uno scandalo. Lo scandalo, semmai, è altro. Cioè, io posso criticare i contenuti di quella radio da un punto di vista. Ma quello che c'entra, quello non c'entra da nulla. Laico, posso fare. Ma non c'entra nulla. E allora dov'è il problema che la radio dov'è un problema? Lettere? Vabbè, non vedi nessun problema, benissimo. No, ma sarebbe come se la Zanzara mandasse delle lettere ai tuoi amici camionisti che ogni tanto chiamano, dicendo: cari camionisti ascoltatori della Zanzara, volete fare testamento a favore della nostra trasmissione perché rimanga in eterno una trasmissione una suburra come questa? Cioè, lo fa Radio Maria alle persone, chiede il testamento. Ma non mi pare una cosa così, è una forma. Dov'è il problema? Questo non è uno scandalo. Mica è una circonvenzione di incapace, no? No. Cos'è? Beh, i due grillini protagonisti della gita a Londra, speriamo con i soldi loro, per protestare contro il Bilderberg sono questi. Uno è quello dei microchip. Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro. E l'altro è quello che in Parlamento tuonava contro il Bilderberg e il governo Letta, sentite. Ha mai sentito parlare di signoraggio bancario, signor Letta? Ne parlate mai alle riunioni del club Bilderberg? Club di cui lei, il suo predecessore Mario Monti, Emma Bonino, guarda caso ministro degli affari esteri, e Mario Draghi, guarda caso direttore della Banca Centrale Europea, fate parte. C'è in omaggio lo stregone Rasputin, sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Poi c'è un senatore del 5 Stelle che si chiama Giarrusso, il quale dice oggi che ci sono 100 berlusconiani del Partito Democratico, gliel'ha detto la Poppato. Come sapete è in rotta di collisione con il suo partito, anche se dice che non esce, si arrabbiato per una questione di poltrone, anche lì, anche Giarrusso, era arrabbiato col povero Crimi che non trovava la commissione. Sta finendo tutto nel ridicolo, dai, sta finendo tutto nel ridicolo. Ma è roba tua questa, dobbiamo ringraziare anche te, gli ascoltatori della radio devono ringraziare anche il signor Giuseppe Cruciani, chi vuole diritti umani vota Giuseppe Cruciani, ma Giuseppe Cruciani è lo stesso che ha mandato in Parlamento a mandare questa pattuglia di gente, uno il microchip, la coppa mestruale, quello che si perde, anche in Germania, la Merkel normale, non trova mai il Bundestag, è così, è ovvio. Oh, la Borletti Buitoni dice: la mia vita da sottosegretario è peggiorata, signora Borletti Buitoni, la vita peggiorata. Lei non può avere una vita peggiorata, una che dà 700.000 euro alla lista civica di Monti non può avere la vita peggiorata, è impossibile. Lei che ha donato 700.000 euro e rotti alla lista civica di Monti, una grande donatrice, per carità, va bene, però non le può essere peggiorata la vita da quando è sottosegretario. Non mi dica queste cose, signora Borletti Buitoni. La mia è stata un'adesione che non mi ha portato nessun vantaggio, e vorrei dire che il sottosegretariato io lo vivo come un impegno civile, ma non è che la mia vita sia migliorata, quindi non capisco poi questa idea. È peggiorata la sua vita? Ecco, non posso, capisco questa idea decisamente. È decisamente peggiorata la vita da sottosegretario, signora Borletti Buitoni. Ma cosa vuol dire peggiorata? Poi no, è peggiorata per chi? Per Borletti o per Buitoni? Pensate, primo. Ma secondo, ma perché? Perché è un lavoro usurante? Che è successo? I capelli, la messa in piega? Forse la messa in piega, sì, la messa in piega. Gaetano da Catania, buonasera, 800 24 00 24. Chi è Gaetano? Gaetano Pecorella. Ci sono, ascoltami. Sì, no, c'era Alberto. Aspetta, Gaetano, c'era Alberto dalla provincia di Lodi. Alberto, allora? Alberto! Sto qua, mi hai fatto quasi morire di gallo, però. Ma perché? Che c'avevi? Scusa, dove stavi? Sono qui sul camion. Scusa un attimo, Alberto, tu sei camionista? Sì. Ma hai fatto 20 anni di galera? Hai fatto 20 anni di galera per cosa? Ma li ho fatti dal 61 in poi. Ma perché cosa? L'accento... un po' disconsato da ragazzo, sai. Cioè, che hai fatto? Li ho accumulati, no? Parecchi processi. Ma perché cosa? Rapina, furto di macchine. Rapina, furto di macchine? Sì, quella roba, sì. Ma che hai fatto? 20 anni per rapina e furto? Scusa, non li fa nessuno 20 anni per rapina ormai? Guarda che forse tu non sei informato. Ma negli anni 60, per un furto di una macchina, sì, avevi 5 anni. Non è come adesso che ti rimane a casa. Scusa, ma quante rapine hai fatto per fare 20 anni di galera? Scusa. Io ho fatto una rapina, ho fatto 7 processi. Sì. Con 7 processi ho accumulato 20 anni. Sì. Ne ho fatti 9 qualche cosa, la Cassazione mi ha dato ragione e sono uscito. Quanti ne hai fatti effettivi? In tutti ne ho fatti 9 anni e 9 mesi, sì, più 2 anni, 5 mesi e 19 giorni. Vabbè, adesso, quindi, ma che hai votato adesso alle elezioni, alle ultime elezioni? Ma adesso sto a posto. Ma che hai votato alle ultime elezioni? Ma che ho votato? Non mi hanno fatto mai votare. Ah, perché non puoi votare, non ho capito. No, non mi hanno mai mandato sta tessera, se non è qui. Praticamente sono nel limbo io. Sei ma limbo. Io volevo parlare di sto Giovanardi. Che volevi dire? Ma che ne sa lui? Ma perché non va a fare delle ispezioni a sorpresa? Va sotto i palazzi di giustizia, a vedere come sono trattati quelle persone lì, che avranno sbagliato, per amor di Dio. Vabbè, la tua esperienza è che le guardie carcerarie sono... Allora, la mia esperienza è stata, diciamo, quasi positiva, perché mi hanno rieducato. Perché allora si lavorava, sì, eri aperto, dormivi come un cristiano, sì, eri rispettato se non facevi niente di male. Non c'era il sovraffollamento, adesso, forse. Ma adesso gli istituti l'avete mai visitati voi? No, io no. Stai, sì, qualche animali, volta, stai, qualche volta per lavoro, così, insieme a qualche deputato, Cruciani, raramente. Stai come le pecore, come i porci. C'hai, allora, gli animali quando viaggiano col camion c'hanno un tot di metri quadrati, metri, sì, cubi. In carcere, una cella che dovrebbe essere cellulare, sì, per una persona, ce ne stanno 4, 3. Ma dove sei col camion adesso? In cella, Dove sei col camion adesso? Sto arrivando a Codogno, io abito a Codogno. Codogno, provincia di Lodi. Alberto, ti abbraccio, sì, ciao. Gaetano da Catania, Gaetano. Allora, dicevo, sono d'accordo quando lei dice che le sentenze vanno tutte rispettate. Ma mi piacerebbe... No, io ho detto che si possono anche discutere, non è, sì, che vanno rispettate. Sì, ma vanno comunque rispettate. Ma no, ma in generale è una frase fatta, ma non è che dico vanno rispettate. Si possono tranquillamente discutere le sentenze. In questo caso, però, sarà per così, per un miracolo. Sì. Cioè, Giovanardi dice semplicemente, vabbè, io sono contento di questa sentenza perché ha dimostrato quello che dicevo da tempo, che non ci sono state le botte, ma semplicemente malnutrizione. La sentenza ha stabilito che... Sì, poi non ci sono ancora le motivazioni. Poi non ci sono ancora le motivazioni. Allora... Comunque sono stati assolti comunque. Dunque? Gli agenti. Mi piacerebbe che comunque Giovanardi dicesse altrettanto delle sentenze su Berlusconi. Sì, ma quando non è tanto su Berlusconi. Guardi, c'è un esempio molto più... molto più vicino, che è quello su Aldo Brandi. Nel caso Aldo Brandi, Giovanardi, nonostante le sentenze di condanna dei poliziotti, ha una posizione diversa. Grazie. Emanuela da Roma, buonasera Emanuela. Buonasera, io ho chiamato per sicuramente offenderò il signore di prima, che non so chi sia, non sono esperto in materia, però volevo dire, in quanto omosessuale, compagna, vivo con la mia compagna da 18 anni, sì, insomma, non credo che bisogna banalizzare le unioni. Vabbè, ma Paolo Poli, Paolo Poli c'ha più di 80 anni, sì, considera il matrimonio una schifezza o comunque ma qualcosa? Per carità, no, però non è il matrimonio, sì, le unioni civili, sì, il discorso è la libertà dell'individuo di scegliere o non scegliere la vita. Perfetto. Allora dico, siccome vivo con la mia compagna da 18 anni, sì, che disgraziatamente si sente male giù, non me la farebbero mai vedere. Ma non è vero, ma non è vero. No, ma quando no? Mai? Io non ho... Ma come no? Ma guardate che la famiglia dall'altra parte non mi vuole neanche vedere. Vabbè, quello è un problema suo, però. Ma quello è un problema suo. No, quello è un problema dei genitori della mia famiglia. Appunto, problema suo, nel senso, un problema personale vostro. No, ti posso garantire. Ho capito, ma non è che c'è una legge che può garantire che i genitori della sua compagna poi la accolgano in casa. Scusi, Emanuele, abbia pazienza. No, forse non mi sono espressa bene. No, appunto. In punto di morte, vicino alla mia compagna, io non ci potrò mai stare. Ma non è vero, ma dipende dal rapporto che ha. Ma dipende dal rapporto che ha con. Sì, ma dipende dal rapporto che ha con i parenti della sua compagna. Ma non c'è, appunto, non c'è nessun problema. Appunto, ma questo qua è un problema loro che sono bagati in testa e non accettano questa cosa. No, assolutamente non. Ma quale legge le garantisce? Ma non c'è nessuna legge. Mi possono cacciare, mi possono cacciare. Ma nessuno può cacciare. Ma quando mai? Ma come no? Ma sì, ma in teoria. È quello che dice lei, per carità. Ma in teoria è così. In teoria è così, ma in pratica. Le posso garantire che anche in pratica. Perché la mia vita è omosessuale, io non posso neanche dichiararmi al lavoro perché lavoro con i bambini. Bene, Emanuela, grazie. Sì, Roberto da Roma, buonasera, Roberto. Sì, buonasera. Dica. Saluti Parenzo e Cruciani. Allora? No, ho sentito di De Benedetti. A chi vuole insegnare la messa a De Benedetti? L'abbiamo conosciuto all'Ambrosiano. L'abbiamo conosciuto nel Mondadori, l'abbiamo conosciuto nell'Olivetti, vabbè, ha distrutto tutto. Vabbè Roberto, adesso lei fa l'intemerata contro De Benedetti. De Benedetti ha espresso la sua idea su Grillo e su Berlusconi, da editore di Repubblica, appunto, non mi sembrano cose particolarmente nuove. Certo, la fase politica è diversa. Ha distrutto tutto, ha distrutto una città, Ivrea. Ha distrutto Ivrea, adesso che De Benedetti abbia distrutto Ivrea mi sembra eccessivo. Era all'avanguardia per il fatto di telefonini. No, ma si può discutere tutto, caro Roberto, si può discutere tutto. Ma non è quello che può parlare, è quello che deve parlare meno, e conosciamo pure Repubblica, conosciamo tutte le sue... diciamo che conosciamo? Le situazioni di che? Del giornale, di chi sostiene, è tutta una questione politica. È normale che attacchi Berlusconi. Beh, cioè, mi pare scontato. Grazie. Grazie a voi. La Zanzara. Zanzare. Dietro vetri in montagna, in collina, in campagna. Abbiamo in collegamento, caro Parenzo, uno dei saggi o esperti che dir si voglia, noi non ce ne frega niente di queste definizioni formali, sono 35 più 7, una cosa un po' complicata, non so quanto capisca la gente, che dovranno preparare il terreno per la riforma costituzionale. Francesco D'Onofrio, buonasera. Buonasera a te, buonasera. Come sta? Come sta? Abbastanza bene, per me è un'esperienza già maturata altre volte. Già è finita, diciamo, non benissimo, ecco. Diciamo i precedenti non sono vincenti, non ecco. Sono ottimi. No, però contrariamente a quello che si dice, sono precedenti che hanno ogni volta prodotto qualche fatto molto rilevante. Lei dice, delle riforme scritte, carta, lei dice molta carta, quello sicuramente, no? Sicuro. Cioè molta carta, sì, il web non era ancora di moda all'epoca. Esatto, sì. È anche spiritoso, però devo dire, il senatore D'Onofrio ha una lunga carriera parlamentare, è entrato addirittura per la prima volta 30 anni fa, quest'anno fa 30 anni dal primo ingresso nelle istituzioni. No, per dire che la cosa mi riguarda e ci so scherzare, non sono voluto essere candidato l'ultima volta perché occorreva passare la mano a quelli più giovani. Per me, io la considero la mia terza vita. Questa qua, dice lei. Certo, perché quella accademica è stata la prima. Sì. Perché se io tanti anni fa ho fatto addirittura lo studente ad Harvard con Kissinger come professore, penso un po' tu. Questo c'è scritto nelle sue biografie. Poi ha fatto il parlamentare, adesso fa la terza. Esatto, è la terza vita. È il saggio. È un saggio per l'età, esperto, si spera. Ma si sente saggio, signor D'Onofrio? Non ho capito. Si sente saggio lei? Beh, devo dire che quando ero giovane mi chiamavano saggio perché mi ritenevano vecchio da bambino. Lei non è mai stato perché giovane. Un giovane saggio è un vecchio, no. E una persona anziana è saggio per l'età. Ma tu lo sai, Parenzo... Lei è proprio vecchio dentro, lei è proprio vecchio dentro. Diciamo. Beh, è saggio dentro, sì, è stato sempre vecchio, non è mai stato giovane. No, però scusami, io ricordo, intanto saluto D'Onofrio, lo abbraccio forte, me lo ricordo che quando era ministro, ma io ricordo una foto strepitosa di D'Onofrio che era in una baita, adesso te lo confermerai. Beh, come no, a Lorenzago. A Lorenzago, con come il signor Calderoli, a fare quella famosa riforma costituzionale che poi fu bocciata. Sì, non ha portato dal referendum. A nulla, poi. No, no, ha portato una riforma che poi fu bocciata dagli italiani, bocciata al referendum, bocciata dagli italiani, e devo dire che quello che mi accingo a vedere adesso mi incuriosisce molto, perché molte delle cose che avevamo fatto noi allora sono esattamente quelle che si devono fare ora, Cioè lei rimetterebbe in pista quella roba lì tranquillamente? Ah, ma non ho alcun dubbio. Il problema è che la riforma fu bocciata non tanto per il merito delle cose, quanto per il fatto che era stata fatta da noi considerati traditori della DC, cosa non vera, da Forza Italia e dalla Lega, soggetti che non c'erano nella Costituente. Ecco, che cosa riproporrebbe lei pari pari, per esempio? Oggi, le due Camere, un Senato federale, ne parlano oggi tutti quanti, all'epoca lo facevamo noi, poi? E fu considerato una cosa sconvolgente. Il Senato federale, la riduzione dei parlamentari di un terzo, la decidemmo allora, e non c'era nessun presidenzialismo, c'era una norma contro i ribaltoni. Oggi tutti parlano male dei ribaltoni e sono molto curioso di vedere che tipo un di un sacco di cose, perché lei per esempio tanto si parla di questo presidenzialismo nei bar, soprattutto un sacco di gente interessata eccetera, lei è contrario, è contrario al presidenzialismo. Ma sono contrario onestamente, non per ragioni ideologiche. Io tanti anni fa, quando ho studiato negli Stati Uniti la prima volta il sistema di governo americano, ho appreso che cosa è quel modello presidenziale. Cioè? Ha una forza enorme nel Congresso, si basa su tre leggi elettorali, non una sola, quella del presidente. Il modo di eleggere il presidente, ecco, è ma perché molto lei legato è contrario, però ci faccia Uniti, capire bene. Cioè. Un continente. Quindi quando si parla del modello presidenziale americano, normalmente si dicono cose che non si sanno concretamente. Dunque chi parla di presidenzialismo spesso non sa nulla, dice lei, no? Quello francese, mi preoccupa una cosa, vorrei che si dicesse che quello francese prevede due turni per votare il presidente e due turni per votare la Camera, cioè si vota quattro volte di fila nello stesso mese. Mi chiedo se gli italiani andrebbero a votare tanta gente. Guarda che la saggezza non è acqua, Parenzo. La saggezza si sente sempre. 74 anni. Il senatore D'Onofrio, scusi, lo chiamo sempre senatore. Lo sai che abita, lo sai, Parenzo, abita vicino a casa mia, sempre abitato vicino a casa mia. Io via a Roma, quando abitavo a Roma, via del Governo Vecchio, lei è là vicino, mi sembra, D'Onofrio. Molto no? vicino, a Corso Vittorio, di fronte a Palazzo Massimo delle Colonne. Esatto. Me lo ricordo benissimo. Allora, regolarmente a Campo dei Fiori, che è un posto bellissimo per fare la spesa. La vedevo sempre, sempre elegantissimo, questo trench. Ma vive ancora con sua madre, senatore D'Onofrio? Purtroppo mamma è morta 5 anni fa. No, vabbè, vive con sua madre, nel senso in quella casa lì, questo dicevo. Sempre in quella casa, ripulita, risistemata, ma in quella casa lì, sì, è vero. Beh, sempre da quelle parti. Perché non si è mai sposato, no? No, non so perché non si è mai sposato. Sono stato sposato per un tempo breve, tanti anni, per 30 anni fa. 30 anni fa? Non mi sono risposato. Mai manco fidanzato, com'è possibile? Ho il rammarico di non aver avuto figli, per la verità. Spero, mi auguro di non... mi auguro che non sarei in corso nei figli... così né malati né sassandati né delinquenti, mi auguro di no, non lo no so. Quello... con quel rammarico di non aver avuto figli gay, ecco, magari omosessuali persona... magari omosessuali, no niente contro di loro, io faccio parte della cultura della laicità, per cui... però era meglio non avere figli omosessuali, dice lei, no? Se uno meglio? Se è meglio non averli figli omosessuali, se uno proprio deve scegliere, no? No, perché se uno può non essere amico di omosessuali, meglio, ma non partecipo di quelli che sono strutturalmente contro. No, lei strutturalmente contro no, però se uno deve scegliere è meglio non avere un figlio omosessuale, o sbaglio? Beh, se lo fa molto liberamente e lo si costruisce nel tempo, non avrei niente di contrario. E come deve farlo, scusi, professor D'Onofrio? Beh, oddio, bisogna che non venga represso la sua scelta sessuale fatta quando è maturo. È un problema molto, questo è un problema psicologico molto serio e molto delicato. Ah, perché secondo lei succede qualcosa nella crescita che può portare verso l'omosessualità, dice lei? Devo dire che gli studi di carattere psicologico, psicanalitico, spiegano molto che l'orientamento sessuale è molto più legato alla persona di quanto non sia legato a fatti diversi. Quindi occorre avere la grande capacità di avere genitori che capiscano e persone che sappia esserlo. È una cosa molto difficile. Cioè, genitori che capiscono, e magari a un certo punto, quando capiscono che la persona può diventare omosessuale, indirizzarla verso un'altra cosa. Che ne so. Ed è un errore di sopraffazione di una persona rispetto al più giovane, che io contesto in radice. Cos'è la sopraffazione? Non ho capito. Beh, ritengo che c'è una sopraffazione di età dei genitori rispetto ai figli, perché indirizzarli. Io sono per la teoria della libertà di decisione, molto maggiore, e quindi la cultura della libertà comincia dal bambino piccolo, non è una libertà che va grande. Quindi noi viviamo tradizionalmente di sopraffazione degli orientamenti culturali, uno vuole fare la facoltà e i genitori si oppongono. Invece non bisogna opporsi, diciamo. Normalmente bisogna capire che la nuova generazione è destinata a vivere in un mondo che può anche essere diverso da quello dei genitori. Allora, abbiamo la pubblicità, torniamo subito con Francesco D'Onofrio, che ha 74 anni, torna clamorosamente in pista. Suona la zanzara, non rompere. La zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco. Como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho. Non è da mettere nessun tipo di voto a nessuno. Qui partecipare. Perché non vieni un. Perché tu che gridi? Vieni qua, ti do il microfono, vieni. Vieni. Oh, lascialo passare. Vieni. Vieni qua. Se devi dire qualcosa io ti do il microfono. Ieri sera a Pomezia fa salire sul palco un contestatore, Stefano, sentiamo. Vieni, come ti chiami? Stefano, tieni, vieni. Scusate, c'è Stefano. Stefano che vuol dire due cose. No, noi siamo. Stefano è un rappresentante di gruppo, vuol dire due cose. Stefano, vieni. Allora. Vai Stefano. Allora, vi dico solo una cosa. Carina, carina. Il signor Beppe Grillo aveva detto che i centri commerciali ne faceva a Parma 9.000 metri quadrati. Oh, sai Beppe, l'hai fatti te. Però non ha tutti i torti questo Stefano, perché in realtà contesta quello che Grillo ha fatto a Parma, dove avrebbe promesso che non avrebbe aperto i supermercati, no, i grandi supermagazzini. Ecco il risultato, ancora. Il tuo blog vale 10 milioni d'euro. Qualche sordo! Ce lo dai qualche sordo! Ma no, parla! Ma perché me ne vai? Ma perché è fantastico! Ma che qua? Lascia, vieni con me! Parla con loro! Ha promesso 1.000 euro per uno! E messi qua in Berta! Se l'è invertati! Dica una Roma! Ci sentite? Invertati! Ancora credete le favole! Ciao! È il numero uno questo Stefano, 800240024. Abbiamo in collegamento uno dei saggi, sono tanti, lei li conosce tutti D'Onofrio, quelli che sono? Tutti no, molti sì, perché io vengo da una carriera universitaria di diritto costituzionale. Quanti non li conosce? 10 non li conosce, diciamo la verità. Ne conosco molti, alcuni no per la verità, però ne conosco molti. Sì, mi dica la verità però, se lei è una persona navigata, no? Più che navigata, 35 persone più 7, che so questi altri 7 come si chiamano, D'Onofrio, come si... Ma a parte il fatto che sono 7 colleghi giovani, tutti molto bravi. No, ma come si chiamano questi 7 tecnicamente? Dovrebbero redigere il testo delle nostre proposte. Noi non siamo un organo deliberante. No, ma appunto, scusi, ma non bastavano, no, ma non bastavano le commissioni parlamentari? Non ci sono 900 parlamentari, lei lo sa bene. Dunque, veda, se uno segue i lavori parlamentari con regolarità, come mi è capitato di fare in questi anni, non può pensare alle riforme costituzionali. Molto spesso noi chiamiamo persone esperte del settore, perché mica dobbiamo sapere tutto come politici. Abbiamo il dovere di occuparci di tutto, ma non è mica detto che dobbiamo sapere tutto. Ora, il governo ha ritenuto di poter, prima di presentare la sua proposta al Parlamento sulle riforme costituzionali, noi siamo una specie di gigantesco organo consultivo del governo. Gigantesco organo consultivo. Sì, dico però, gigantesco perché siamo tanti. Ma se ne sente il bisogno, bene, senatore D'Onofrio, se ne sente il bisogno. Se avesse nominato 2 o 3 persone, si sarebbe detto, ah, chissà che cosa guarda. Siamo tutti a titolo gratuito, lo facciamo così. Non ci obbliga nessuno. Siamo sicuri a titolo gratuito, sì? Non ho capito. Siamo sicuri che è a titolo gratuito? Totalmente, l'unica cosa è il rimborso delle spese di viaggio per quelli che non sono a Roma. Io sono a Roma, non ho neanche il rimborso di viaggio perché ovviamente vado a piedi o con l'autobus. E magari il taxi. Io vado normalmente a piedi o in autobus, non mi succede niente. Non si farà dare un euro lei comunque. No, niente di niente. Ma questo fa ma come ho detto ieri parlando con alcuni miei colleghi nella prima riunione che abbiamo fatto a Quirinale, questa cultura dello spirito di servizio non è uno scherzo. Qualcuno di noi lo ha prevalentemente per ragioni economiche, perché c'è la crisi del paese, e qualcuno di noi lo ha come spirito di ispirazione cristiana, che cioè lo spirito di servizio è normale. Devo dire che tra i miei colleghi prevale questo spirito di servizio. Perché noi abbiamo studiato il diritto, la Costituzione italiana, è normalmente avere... Però, scusi, lei, senatore D'Onofrio, sa bene che alla fine questi organi, questo gigantesco organo consultivo del governo, come lei ha detto, a cosa può servire? Ci sono persone di orientamento completamente diverso, lei che è a favore di una cosa, un altro che è a favore di un'altra, cosa si può produrre? Nulla, un pastrocchio alla fine, no? Vede, quello che... A parte il fatto che la prima riunione, ho appena avuto la telefonata che siamo convocati la prima volta mercoledì prossimo. Ah, mercoledì, mercoledì prima riunione. Le questioni sono 4 e la gente normalmente nei dibattiti le sente declinare come fossero cose di estrema semplicità. Non è così. No, ma d'accordo, ma io voglio dire, il risultato finale con 35 persone, quale può essere? Cioè, è questo che persone di orientamento completamente diverso, cosa può produrre questa roba qui? Quello che... l'itinerario delle riforme che il governo ha indicato in 18 mesi prevede che per i primi 4 mesi, da adesso fino a ottobre, noi lavoriamo come orientamento e consulenza sulle domande che ci farà il governo sulle questioni bicameralismo, Senato federale, sistema di governo. Una gigantesca organo consultivo. Lei ha spiegato a ottobre il governo si augura che il suo disegno di legge costituzionale che prevede la nascita di 40 parlamentari sia stato nel frattempo approvato dalle due camere. Ma lei capisce che questo percorso la gente non capisce se nulla. Se questo avviene, a ottobre nasce una commissione di 40 parlamentari, deputati e senatori, da 35 ai quali 40. Il governo farà una proposta complessiva di riforma costituzionale che noi avremo nel corso di 4 mesi messo a punto dal punto di vista... Parenzo, che volevi dire? No, ma voglio dire, professore, senatore, ex ministro, saggio di Lorenzago, volevo dire solo saggio questo, di Lorenzago, che... saggio di D'Alè, della commissione, altre commissioni, la De Mitaiotti. Io mi metto nei panni del camionista che sta tornando a casa sulla Tuscolana. E si chiede questo, senatore D'Onofrio, con la semplicità che appartiene a me, al dice, ma senatore, ma perché 35 persone dovrebbero, voglio dire, perché questa volta dovrebbe andare bene? Ecco, perché stavolta sì e tutte le altre avete prodotto un buco nell'acqua, se non tantissima straordinaria carta? Perché stavolta va bene? Perché? Intanto il problema di fondo è riuscire a capire se il governo in questi 3 mesi riuscirà a fare cose di tipo economico, finanziario, vabbè, quello è un altro discorso, fondamentale, ed è una cosa diversa dalle riforme istituzionali. Le riforme istituzionali di tipo complessivo, come quelle che il governo indica al Parlamento, e il Parlamento questa volta per la prima volta in 30 anni vede insieme i due partiti maggiori che si sono contrastati. Ma non c'è, scusi, però, senatore D'Onofrio, non c'è il rischio di perdere un po' di tempo, no? No. Credo di no, perché ci vuole un anno e mezzo per fare questa roba. Mica è una cosa semplice. No, non c'è dubbio, non è assolutamente non è una cosa semplice. Questo è vero, non è una cosa semplice. Senta, mi racconta ma un po'. Ma noi mica dobbiamo lavorare un anno e mezzo, noi lavoriamo i primi 4 mesi, E poi via, e poi basta, Poi sei mesi pieni della commissione. Senta, ma Grillo che dice che il Parlamento è maleodorante, è una tomba maleodorante. Questo lo dice, ho letto che è scritto nel blog di Grillo, io non lo ritengo una tomba maleodorante. No, quello che lei non lo ritenga è indubbio, ma non è un po' fuori dalla democrazia questa roba qua? Perché non è la prima volta che c'è un insulto al Parlamento, la storia italiana è piena di insulti al Parlamento, normalmente non da parte di persone che amavano la rappresentanza politica, però non voglio entrare in polemica. Ma non è un po' fascistoide, senatore D'Onofrio? questa roba ma qua. Fascia storia può sembrare una cosa politicamente sgradevole, perché l'Italia ha avuto un passaggio fascista, quindi la questione ha un significato. Vabbè, ma diciamole le cose sgradevoli. È un modo che non dovrebbe mai essere adoperato, qualunque sia la critica si fa al Parlamento. Tu lo sai come veniva chiamato D'Onofrio Parenzo? No. Un uomo chiamato Cavillo. Un uomo chiamato Cavillo. Questo mi autodefini io un uomo chiamato Cavillo. Perché lei è fissato con i cavilli, con perché i dettagli. No, perché io ho il gusto britannico dell'autoironia. Ah, sì? Io mi autodefini un uomo chiamato Cavillo. Perché fu il modo di... Quando discutevamo tanti anni fa di leggi costituzionali, io dissi, vedete, c'è un modo di vedere queste cose come un cavillo giuridico e c'è un modo politico di vederlo come un cavallo politico. Beh. Io sono un uomo chiamato Cavillo. Beh. L'alta scuola della Prima Repubblica. Senta, secondo lei Napolitano deve andare a testimoniare a Palermo o no? Cioè, che cos'è per un Presidente della Repubblica andare a testimoniare è una cosa vergognosa? Non è una cosa vergognosa di per sé, lo trovo uno sgarbo inutile. È un modo che io come magistrato eviterei, salvo che non fosse. Però il problema di fondo è quello dell'accertamento della verità. Capisco che è una questione di estrema delicatezza. No, questo che sia di estrema delicatezza non c'è dubbio. Lei dice uno sgarbo nei confronti del Presidente, cioè chiamare... Lo considero uno sgarbo inutile, infatti credo che non debba andare. Sì, poi adesso non so chi deciderà, ma insomma, non è quello il punto. Senta, ma mi chiarisce una cosa, lei che è depositario di qualche segreto della Prima Repubblica, io ho sempre una cosa, scusi se insisto su questa cosa, Parenzo, ma io ho questa fissazione qua, siccome parliamo spesso di omosessuali, ma qual è quel famoso primo ministro omosessuale che c'è stato in Italia, ministro degli esteri anche, chi è secondo lei, uno della DC di cui si parla sempre, chi è stato? Della DC? Sì, della DC. E non mi ha stato da fare, non abbiamo avuto tanti ministri degli esteri. Viene anche a me pensare a qualcuno in particolare. Ma non si sa, ce la può dire, ci può fare questa confessione? No, perché se avessi la prova concreta e fosse una cosa conclamata non avrei difficoltà, ma siccome si tratta di ripetuti pettegolezzi nei confronti di qualcuno, non voglio dar corso a nessun pettegolezzo aggiuntivo. Sono stati sempre pettegolezzi, secondo lei, senza un fondo di verità? Oddio. Insomma, non c'è niente di male poi se uno no, cioè qual è il problema? Ma infatti fa parte di quella cultura del nascondere questioni personali che per molti anni ha rappresentato sostanzialmente un fatto prevalentemente più di ipocrisia che di credo profondo. Ma insomma, se Colombo era omosessuale o no, secondo lei? A me non mi risulta. Se poi lo è. Una volta disse anche che ha consumato cocaina per uso personale. Però vabbè, queste sono le mie fissazioni sulla Prima Repubblica che ancora non ho risolto. Alla fine lo confessò a lui. Però vedi che discrezione, vedi, questa è una riflessione interessante da fare in chiusura. Cioè nella Prima Repubblica si stava zitti, no? Si stava zitti. Vedi, questo è interessante. Anche sull'omosessualità si stava zitti. La Prima Repubblica? Si stava zitti anche sull'omosessualità, nessuno diceva. Eppure quanti ce n'erano omosessuali in Parlamento, no? Diciamo, c'è una questione, ora per dire cose in termini molto, ti ricordo anche politico personale. Stiamo passando da un lungo periodo nel quale in Italia si faceva prevalere una logica complessiva di privatezza e di ipocrisia rispetto al dibattito pubblico delle questioni private. Pensate a come noi siamo stati lungamente tendenti a nascondere la disabilità dei propri figli, nipoti, discendenti che sono stati trattenuti e mai esposti. E negli ultimi 10 anni abbiamo cominciato pian piano a rendere visibile la disabilità dei però scusi D'Onofrio, alla fine non mi vuole rispondere, Colombo era omosessuale? A me non mi risulta, so che si diceva molto, ma a me non risulta, quindi lasciamo la storia ancora così sospesa. Grazie, a presto. Pubblicità. D'accordo. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. La Zanzara. Un deputato del Movimento 5 Stelle che si chiama Gianluca Vacca dice che Alessandro Furnari e Vincenza Labriola, cioè i due dissidenti che se ne sono andati dal gruppo, sono due parassiti. La situazione è semplice, sono due parassiti, nel senso che a fronte dei tanti soldi guadagnati hanno prodotto al momento pochissimo. Evidentemente ritengono di doversene andare e le motivazioni di cui hanno parlato sono piuttosto deboli. Effettivamente delle motivazioni non si è capito un cazzo. Comunque sono due parassiti. volano gli stracci, chi se ne va è considerato un parassita, una merda. Così si legge nei blog nei confronti di questi due signori, Furnari e Labriola, di cui non me ne frega assolutamente nulla a me. Furnari e Labriola certo non se ne sono andati per grandi motivazioni, o comunque non ce le hanno spiegate. Beh, perché? Adesso questo lo dici tu. Non ce le hanno spiegate ancora. No, mi pare da quello che ho letto in rete. Ma non hai letto nulla, non hai letto niente. No, questa hanno espresso le loro perplessità rispetto alle cazzate dette da Grillo in materia di lavoro e in particolare sulla questione dell'ILVA. Non si è capito niente, dai. Non si è capito, dai, su. Non riesci a spiegarlo nemmeno tu. Non si è capito. Lo sto spiegando io. Quello che ho capito, loro se ne sono andati perché essendo stati eletti in quelle zone là, dicono che sulla questione dell'ILVA, ad esempio, sì, Grillo, sì, e per questo te ne vai dal gruppo parlamentare, ma dai, su, dai, Stelle, dai. Siccome loro sono espressione del territorio, dicono, sì, Grillo su questo non ha detto una parola su come intende intervenire su questa vicenda, su quali ricette il super guru, il guru che gira le piazze a, sì, urlare sui palchi. E loro hanno detto: non vogliamo più restare dentro questa roba, ce ne andiamo. Sì, ma non sei cazzo, solo tu l'hai capita sta cosa. No, no, è solo io, basta leggere, basta, sì, vedere, capire. Sì. Allora, le clamorose affermazioni, dichiarazioni di Michi Kay ieri sera alla Zanzara, innanzitutto sul Gay Pride, innaturale l'unione tra due uomini o due donne. Sentiamo. Ma lei un bel matrimonio lo vorrebbe, ma il matrimonio tra due uomini o due donne, proprio. È abbastanza innaturale, anzi assolutamente innaturale, per cui è un fatto, come dire, che non secondo me non è, però insomma, che ne so io, se lo vogliono, se due è giusto che gli vengano garantiti i diritti, questo sì. Just the same as he put you, so I'm nature's mosquito. Non vado al Gay Pride. Però una cosa è avere uno che si faccia per la strada, una cosa è andare al Gay Pride. Io non ci vado. Così come non vado al Festival dell'Unità, non vado al Gay Pride, voglio dire. Uguale, cioè sono cose schierate che a me non piano, non me ne frega niente, non ci vado. Il Gay Pride è schierato, ma è schierato per le unioni gay, sì, d'accordo, ma non è che è schierato il Gay Pride, c'è gente di sinistra, di destra, di centro, transessuali, transgender, di tutto. Da giovane sono stato cocainomane. Lei è cocainomane o no? No, non più. Non più, lo è stato? Lo sono stato, l'ho sempre ammesso e non me, quando ero ragazzo. Quando io avevo vent'anni, vivevo un periodo storico che era un periodo molto, ma molto, come dire, diverso da quello attuale. Era il periodo della contestazione. Il mitologico Silvano Agosti, regista, uno dei nuovi guru di Grillo, sentite, te lo ricordi Parenzo ieri sera, spettacolare, sì, Agosti, come immagino il mondo, senti. Il mondo come lo immagino io, un mondo dove nessuno lavora più di 2 ore al giorno, dove ti regalano la casa a 18 anni, dove chi si occupa di politica fa del volontariato, dove chi desidera fare l'amore si mette un fiorellino azzurro sul petto in modo che tutti lo sappiano, e dove soprattutto i bambini non vanno a scuola ma crescono nelle vere aule. Sai quali sono le vere aule? Sono i parchi. Sai quali sono i banchi giusti? Gli alberi. E i bambini devono giocare fino a 18 anni. Ma in Germania, Parenzo? In Germania lo fanno, ma è chiaro. Ma la gente non va da nessuno, ma non si studia per strada, si raccoglie l'erba, si annusa il terreno, la terra, lo fanno ovunque. Fino a 18 anni si scorrazza per le strade, si annusa la terra, la si porta vicino al naso, la si respira. Ma come si fa l'amore? La si mangia. Si fa così, si vive così, si fa l'amore tutto il giorno. In Germania è così, per questo producono di più, perché non si fa un cazzo. vuole due ore, basta. Ma come dovrebbe essere il contrario, scusa? Dovrebbe essere... capite, scusi, Grillo, deve... Confindustria, solo voi, è solo... Lei è Morelli, questo signor Morelli, siete ah, voi. Quello dei giovani della Confindustria, sì. Ma quali giovani? Che è lì che lavora col proprio petto, lì che fa comizi, che parla. Dovrebbe uscire, spogliarsi nudo, abbracciare una pianta, Morelli. Ma, scusi... Ma in Germania è così. In Germania la gente quando non c'è tensione, perché la gente gira nuda, abbraccia le piante, la naturalezza delle cose, mangia le bacche, ma mettono un fiorellino quando vogliono fare l'amore, un fiorellino a ma c'è solo un cretino come te, seriale, metti un fiore, hai fatto l'amore, devono saperlo tutti, la gioia della vita, cosa c'entra l'energia elettrica, è la morte, inquini tutto, fai l'amore e basta, ma di cosa c'è bisogno di più? Beh, insomma, la produzione, il mondo che va avanti, le strade, i ponti. Ma cosa va avanti? Sono un cretino come te, va avanti, guarda come sei stressato, ogni volta mandi il traffico, a piedi devi andare, incontri una, la guardi, le metti un fiore e cominci subito a pomiciare. Io l'ho fatto l'altro giorno, mi hanno tirato una sberla, non capisco perché. C'è violenza. Ma parente lo pagate voi per stare in trasmissione? Pasquale da Milano, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Io volevo fare solo una breve considerazione sulla questione Cucchi. Sì. Il problema delle dichiarazioni di Giovanardi non è ciò che dice, ma chi le dice. È problema di una persona. No, guardi, a me spesso non me ne frega un cazzo di chi dice le cose. Ascolto e leggo solo il contenuto. Poi le può dire anche Hitler, ma non mi interessa. Eh sì, però cioè, dipende anche chi dice una cosa. Cioè, uno non ha l'autorevolezza di dire una cosa, non può dirla. Cioè... Il discorso è che se uno va a manifestare sotto il Palazzo Giustizia, che io ci vado spesso sotto il Palazzo Giustizia a vedere questi che manifestano, davvero una barbarie. Vedere questi che votano le peggio cose in Parlamento e poi sì. Usano una sentenza per fare propaganda, che è questo che ha fatto Giovanardi, per fare propaganda, e questo è il problema, non è tanto il quello che dice, che può essere anche... Ho capito, però Pasquale, io dico una cosa... A prescindere da Giovanardi, perché si vuole a ogni costo la condanna degli agenti penitenziari? Non conosco nemmeno il nome, non me ne può fregare di meno. Perché? Per esempio Vendola, la Boldrini, tutta questa gente qua che commenta, che dice la giustizia è morta, questi sbagliano, cioè, perché comunque le sentenze, come diceva anche un mio vecchio Dominus, cioè non si discutono, ma si appellano al massimo. Non ci dovrebbe neanche essere un discorso, un dibattito politico su una sentenza, secondo me, per come la vedo io. No, ma in questo caso è inevitabile, si può discutere che c'è uno strabismo. Aldo da Bergamo, grazie Pasquale. Aldo. Sì, buonasera Luciano. Dica. Ascolti, io volevo parlare in merito al discorso prostituzione. Io ritengo che tecnicamente la prostituzione in Italia sia perfettamente legale. Ve ne spiego perché. Perché? Sì, però adesso non ci faccio un discorso giuridico, perché è legale la prostituzione? No, ma io non sono un giurista assolutamente, anzi le sto chiedendo un parere, a dire la verità. È legale. Allora perché... uno mi chiede a Michiche della cocaina trovata un mese fa nell'auto del suo autista personale, era troppo ardito? Guardi che la cosa è stata poi smentita successivamente, della cocaina trovata, poi non è che ci potevamo mettere a fare il processo o l'ispezione di polizia nei confronti di Michiche. Aldo, allora? Sì, no, dicevo... nel momento in cui io voglio prostituirmi, apro uno studio professionale a tutti gli effetti dove io faccio dei massaggi e sono da solo, pago le tasse e posso fare quello che voglio all'interno di questo studio. Non c'è nessuna legge che mi impedisce di prostituirmi, ok? Non posso associarmi con altri, perché nel momento in cui io faccio una società, l'amministratore di questa società è accusato. Vabbè, automaticamente allora... di... E allora ritengo che sia un non problema, nel senso che nel momento in cui le prostitute vogliono pagare le tasse lo possono fare tranquillamente. Questo è quello che dico io. Ma che possono fare? Lo possono fare a che titolo, scusi? No, in quanto a titolo di massaggiatrici, per esempio. Ah, vabbè, ma d'accordo, con un trucco. Ma non è un trucco, non è un trucco. Vabbè, ma con un trucco, ho capito, ma se Aldo, ma se la massaggiatrice poi fa prestazioni sessuali, questo non si può fare. Ma in quale reato incorre? Non ho capito. Ma non lo so, lì siamo siamo sull'orlo, no? Siamo al limite, come al solito. Lo so, però secondo me il reato di prostituzione non esiste. Vabbè, Donato, provincia di Benevento. Buonasera, Donato. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare del caso Cucchi, con riferimento anche al caso di Uva, e di Aldrovandi. No, ma non può mischiare tutte le cose, Donato. Vabbè, su. Allora? No, voglio solamente dire che, insomma, secondo me è una vergogna che delle persone che in divisa, che dovrebbero, insomma, far rispettare la legge, usano violenza su altre persone. Sì. E, cioè, morire come è morto Cucchio, come è morto Uva, è una cosa vergognosa. E io a questi agenti, perché secondo me è palese che c'è stato un abuso di potere, sono stati picchiati, massacrati di botte, sì, questi ragazzi. Ma chi l'ha non detto? Vengono condannati. Ma chi l'ha detto che è evidente? Lo dice lei che è evidente? Vabbè, sul caso di Uva è evidentissimo, insomma, se è seguito. Ma un questo po' è un altro discorso. Insomma, secondo me è evidente anche in questo caso. E dunque che c'è dietro? Un complotto? Viene oscurata la verità da forze del male? Che cosa c'è? C'è qualcuno che protegge i poliziotti delle carceri? Gli agenti di custodia? Chi è il grande burattinaio? Non sono riuscito a trovare le prove, perché? Chi l'ha impedito? Questo bisognerebbe capirlo. Ah, ecco, questo bisognerebbe capirlo, impedito, certo. Insomma. Qualcuno l'ha impedito. Pubblicità e borsa, torniamo subito. Il mondo come lo immagino io, un mondo dove nessuno lavora più di 2 ore al giorno, dove chi desidera fare l'amore si mette un fiorellino azzurro sul petto in modo che tutti lo sappiano. La Zanzara. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Le parole che fanno più incazzare in queste ore ve le proponiamo noi, innanzitutto quelle di Giovanardi ieri qui alla Zanzara sulla vicenda Cucchi, gli agenti vittime anche loro, sentite, ma sono vittime come Cucchi dunque? Certo che sono vittime, ma io non sono dubbio che le agenti di custodia che non hanno fatto come la sentenza ha dimostrato assolutamente, sì, nulla, hanno passato 3 anni di inferno. Ci sono 3 poveri agenti di custodia che forse con le loro famiglie stasera festeggeranno l'uscita da un incubo. Intanto Ingroia, rientrato in magistratura, anche se non vuole andare ad Aosta, parla della qualsiasi, per esempio il berlusconismo che domina nella mente degli italiani. Il berlusconismo domina la gran parte delle menti degli italiani, compresi gran parte degli ambienti della cosiddetta sinistra o del mondo progressista. Chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo tu da me. Love of my life. Oh, eccola, Love of my life. Nicole Minetti, mi ero dimenticato di lei. Nicole Minetti che dice che con Berlusconi fu vero amore. Tengo a precisare proprio qui in quest'aula di tribunale e una volta per tutte che il mio è stato un sentimento d'amore vero nei confronti di Silvio Berlusconi. Da me le zanzare di casa mia. Vero amore, dall'amicizia a una relazione esclusiva. Fui da subito molto affascinata dalla personalità e dal grande carisma che esercitava su di me il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nacque così da prima un rapporto di grande amicizia che successivamente sfociò in una relazione sentimentale. La nostra relazione, che io ritenni sempre esclusiva, si concluse sul finire di quell'anno. Anche se il giorno scivola via, si svegliano per me. La campagna di odio nei confronti della Minetti, sentite. Questa storia ha scatenato su di me, e vorrei sottolineare soltanto su di me, una feroce campagna di odio e diffamazione, che non credo possa avere un precedente dal dopoguerra ad oggi nella storia d'Italia. Ma io devo dirimere alcune questioni fondamentali, devo sciogliere alcuni nodi, lo posso fare solo ed esclusivamente con una persona. Ci sono 3 cose che devo... Parenzo, sono 3 cose che ho in testa da alcuni giorni e che posso risolvere solamente con l'aiuto di Rocco Siffredi. Eccola. Rocco, come stai? Dove sei, diavolo mio? Dove sei? sulle grandi freeway di Los Angeles. Beh, siamo al top, In direzione di un bel set, ma aspettano un po' di donzelle. Ma scusa, ma stai sul set, non sei più in Ungheria, là, sui set, adesso si gira pure in America. Sono a Los Angeles, ho appena finito un film a San Francisco e devo finire un altro qua a Los Angeles e poi rientro. Scusa, ma in un set, tanto per fare un esempio, quante volte vieni tu in un set? Quante volte vengo? Ci vado tutti i giorni e vengo tutti i giorni. No, ma quanti? Più volte al giorno. Adesso però, siccome sto diventando un po', insomma, no, l'età passa, quindi mi limito a farne una buona al giorno. Ma buona significa ore, no problem, però una, diciamo, ecco, raramente due, raramente se il copione lo chiede. Beh, sei un mito. Senti, Rocco, ti voglio chiedere una cosa. La prima questione che voglio sciogliere con te è questa. Tu hai letto di Michael Douglas e della ricerca? Beh, sì, è una cosa pazzesca. Che dice poi che ne parla molto. Ma tu dovresti, parla molto. Tu dovresti essere morto a quest'ora. Sembra più una scusa per pubblicizzare il suo nuovo film che sta uscendo. Però, bravo, bravo, bravo. Tu dovresti essere morto a questo punto. Dovrei essere assotterrato, dovrei essere incenerito con tutti i culingulus che mi sono fatto negli anni. Ma a me mi piace, attenzione, a me mi piace molto sia il davanti che il di dietro leccare, quindi credi che sarei morto. Ma scusa, morto. Poi anche il nostro business non esisterebbe, credo sia più una scusa. Anche io l'ho vissuta così. Parenzo, tu che dici di questa cosa? Ci siamo già espressi. Di fronte diciamo al professore, non è che io voglio intervenire nel dettaglio di queste no, ma è vero che a me pure è sembrata una scusa, perché abbi pazienza, è vero che ci sono dei possibili virus che si possono trasmettere, ma il signor Rocco Siffredi, che da quanti anni, insomma, esercita 30 l'anno prossimo, 30 da 30 anni è sul campo, a questo punto dovrebbe essere sepolto con la benedizione, sì, benedizione non so, troppo lo diciamo. So, lo so. No, ma secondo me, a parte questa storia qui, voglio dire, noi nel nostro settore siamo iper attenti, però c'è da dire, sì, che siccome il rapporto anale e quindi il multiplocco, sì, tra ragazzi, già solo trasportando quello che si chiama l'uccello davanti a dietro, già una persona che non è malata, tra virgolette, gli porti dei batteri che non, certo, sono in un posto e che sono nell'altro. Non c'è figurati dubbio. Quando li trasporti da un sedere all'altro, cosa che facciamo spesso e volentieri. Beh, quello però adesso dire, si entra anche le ragazze dovrebbero essere avere gravi problemi, no? Quindi però limitiamoci a quello che viene chiamato cunnilingus, no? Limitiamoci, sì, a quello, ecco, quella roba, sì, lì. Sì, no, vabbè, ma lì allora c'è un'esagerazione, perché oggi le ragazze, il porno è diventato estremo, c'è poco da fare. Io sono in America qui adesso, l'ho, sì, lasciata qualche anno fa, sì, e devo dire che sono allucinato. Le ragazze tutte estreme, c'è questa società che si chiama Kink a San Francisco, che ha trasformato il porno degli anni che io ho lasciato in una cosa incredibile. Sono tutte o sottomesse o domine. Ma una cosa pazzesca. Una un'evoluzione della sessualità o estrema. Ma ti ci ritrovi tu? Ti ci ritrovi tu o no? Guarda, mi sembro uno alle prime armi. Lo so. Mi sembra di essere alle prime armi. Io guardo con gli occhi sbarrati. Ho girato a San Francisco, dove James Franco ha fatto il documentario, sì, sul, sì, mondo di Kink, che l'antagonista di Spider-Man, sì, ha voluto un po' capire. Io giravo il vampiro, lì giravo un film grande quest'anno, hanno fatto, sì, il filmone dove mi hanno chiamato a interpretare il vampiro. E ti assicuro, passavo nelle stanze dove c'erano sadomaso, gay che si inculavano, no, donne, sì, che si una cosa pazzesca. Che piangono, c'era una cosa, sembrava di stare all'inferno. Una cosa incredibile. Se anche tu ti sconvolgi, se ci andiamo noi, Parezzo. Però con una totale normalità. Allora io mi sono detto, ma sono io che sono rimasto indietro, o la mia mentalità italiana da persona che comunque poi ha o la famiglia o i figli tutto, quindi io vivo una doppia vita molto particolare, certo. Però è affascinante vedere questa nuova generazione che vive questa sessualità così normale. Senti, Rocco, ma hai letto per caso, non credo, oggi c'è stata la signora Minetti, sì, che dovresti, sì, l'ho letto, che dice letto, che sì, consiglia, innamorata di Berlusconi. Ma dice, una cosa pazzesca, dai, su, dici qualcosa su questo. Cosa hai pensato appena hai letto? Ma guarda, sono come tutte le donne bellissime che sono con degli uomini affascinanti di 40-50 anni più di loro che dicono, hanno la scusa di dire sono l'amore, che cazzo devono dire? Vabbè, oggi il dio denaro, il potere si chiama amore. Vabbè, ma scusa, in uno di questi film che vedi adesso, in questo set dove stai andando, non ci starebbe bene pure la signora Minetti? Ma guarda che la Minetti, se viene nel nostro settore, no vabbè, in Italia mi dicono tutti, Rocco, mi raccomando, fagli un culo per tutti noi, però no, attenzione, la Minetti io l'ho sentita al telefono, è molto simpatica ed è molto open, io credo che ci sarebbe benissimo, anche nell'estremo, anche a Kink, anche proprio in quegli ambienti molto estremi, credo che farebbe la sua bella porca figura. Ma scusa, ma non l'hai convocata, non hai cercato? Lei mi ha detto al telefono, Rocco, secondo te un film con me te spaccherebbe, questo è sincero che ti dico, io gli ho detto, con me te spaccherebbe, sicuramente. Ma col presidente io e te faremmo il film del secolo. Vabbè, ho capito, ma questo è un sogno, però un sogno impossibile. Ma, guarda, i sogni bisogna sempre viverli col massimo. Ma restiamo a lei, perché si possono avverare. Certo. Guarda che il presidente ha talmente tante risorse che sono sicuro che non sarebbe per lui così complicato mettersi lì e dire ragazzi, ho nulla da nascondere. No, lui non mi sorprenderebbe, guarda. Scusami un attimo, Rocco, ma con la Minetti siamo sicuri che non si può concludere un business? Ma secondo me prima o poi qualcuno ci arriverà. Il problema è che lei mi ha chiesto un tantino su quello che era il ricavato e io gli ho detto purtroppo l'Italia è limitata a livello hard per quello che magari cerchi tu. Sì. Quindi bisognerebbe ambire a qualcosa di molto più grande. Cioè lei per tanti soldi il presidente per avere quei ritorni che chiedi. Ma tu, per tanti soldi lei lo farebbe? Credo che lei lo farebbe per un discorso economico, ecco, anche di voyeurismo. Io credo che oggi lei sappia quanto gli italiani vorrebbero vederla sessualmente a livelli alti, quindi credo che gli faccia piacere. Insomma. Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio a Los Angeles. Parenzo, gli vogliamo chiedere di questa cosa di Grillo di recente che ha detto sulla prostata? Che è una cosa... Tu hai mai sofferto di prostata? Probabilmente è l'unica parte forte di me, perché ancora non mi ha mollato. Guarda, io prima facevo la pipì, facevo i record, adesso sgocciolo appena, vuol dire che sono ai limiti, quindi continuo. No, ma lo sai perché? Te lo dico. La navigatrice teorica che mi dice che mi devo girare verso il Freeway 5, scusa. Però scusami, Rocco. Dicevo, per fortuna riesco a gestirla ancora bene. Ma lo sai perché? Te lo dico io, lo ha rivelato Beppe Grillo qualche giorno fa in un comizio. Senti, te lo faccio ascoltare. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare. Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì. O se no fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese, io sono a 18, quindi 21. Allora tu ai massimi a quanto sei arrivato? No, 21 al mese, a quanto sei arrivato? No, io ne ho fatte molto di più, molto di più. È per questo che sei a posto. Ho dato tanto. È per questo che sei a posto, Rocco. Ma io probabilmente devo dirti una storia. Sono di quelli che però lo dice anche la realtà. No? Più lo fai, più hai voglia e più stai bene. Quindi secondo me il fatto di utilizzarlo fino alla fine. La fine significa... Perché no, anche fino all'ultimo respiro. Cioè, vuoi morire sul set? Vuoi morire sul set? Sì, ci ho dedicato una vita. Se arriva così, magari. Meglio, così, magari. Meglio, un bel infarto sul set. No, infarto no. Che ne so? Forse meglio un bel infarto che un morso sull'uccello, che già mi è successo due volte, non deve essere una bella cosa, quindi gli americani sono diventati cannibali. Ti dico, sto girando con delle ragazze, ho quasi 50 anni, 49 sì, anni, sì, sono sì. arrivato qua, la cosa bella, le agenzie che mi chiamano, Rocco, you have a list of girls who wants to work with you, tutte ragazze, giovani, perché io non sono della mia generazione, e che mi richiedono I want to work with Rocco Siffredi. Per me questo è un bel segnale, vuol dire che ho lavorato molto molto bene prima e duramente, ma vedi, alla fine ci raccolgono i frutti e fa piacere, insomma. Ciao Rocco, a presto, ciao. Grazie, ciao, ciao, a presto. Ciao caro, da Los Angeles in diretta il mito Rocco Siffredi. Traffico. Nuova Volkswagen Golf per la vostra flotta da oggi anche con Business Pack. La Zanzara. Bye. come zanzare, queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città, qui sulla strada. Dove passano quei passi. Nicola, provincia di Trapani, buonasera. Nicola. Cruciani, dottor Cruciani, buonasera. Vada. Io la seguo sempre ogni sera, quasi ogni sera, e devo dire che lei ultimamente, anzi da un bel po' di tempo, è a corto di idee. Sì, sì. È mai possibile che ogni sera... Infatti, guardi, produciamo pochissimo. Sugli omosessuali, sul gay pride. Ma non è ogni sera, smetta! Ma ogni sera, ma cambio, non è più argomento, Cruciani, ma ogni sera parlare se vogliamo, lasciali in pace... Gli omosessuali. Non lasciali in bacio gli omosessuali. Ogni sera è una campagna, è una fissazione. Tu non dici una trasmissione, se si baciano sulla strada, lei che cosa fa? Se guarda un ragazzo, sei che cosa fa? Ma cambia, non è più argomento. Ma ti posso dare un bacio o no? Ti posso dare un bacio? No, anche due. Ti abbraccio fortissimo, Nicola. Anche a te. Ma guardi che Nicola, noi parliamo di un sacco di cose, dai Nicola, su. Ma no, ma ogni sera non c'è una trasmissione che ogni sera Non è così. Guardi che noi per mesi non abbiamo parlato di Froci, A parte che è l'attualità che ce l'ho. Beh, Parenzo, che dici? No, dico che alle volte è l'attualità, è il dibattito politico che ce lo impone, voglio dire, non è che siamo noi che lo scadenziamo. Alessio, provincia di Alessandria, su, Alessio. Sì. Ciao Cruciani, buonasera. No, mi volevo ricollegare al discorso di Cucchi. Sì. Qualche periodo fa è analoga a questa cosa. Ho visto una trasmissione di Santoro dove si parlava del super latitante che a Parma, Bernardo Provenzano. Provenzano, allora? Esatto, e si supponeva in quella trasmissione appunto che questo signore potesse essere stato malmenato o qualcosa del genere. Illazioni, ipotesi, allora? Illazioni, ipotesi, ma non se ne parla, non se ne è più parlato. Vabbè, perché lei ne vorrebbe parlare adesso alle 20:52? Io ne vorrei parlare perché sembrerebbe un argomento abbastanza attuale. Sì, noi adesso, secondo lei, 20:52 però... ci mettiamo a parlare delle possibili dei possibili maltrattamenti di Provenzano in carcere. Abbia pazienza, Alessio, ci potremmo mettere a parlare perché nessuno va a fondo, perché i giornalisti non ne parlano. Ma non è vero, in Italia si va a fondo su tutto, Franco da Roma. Allora, caro Cruciani. Sì, caro Franco. E Parenzo. Sì. A parte il fatto che io mi ricollego alla telefonata fatta prima da quest'altro signore lì, cose varie. Sì. Allora, anziché Zanzara, no? Chiamatevi Radio Massa. Radio? No? Radio? Massa. La massa. Ah, la massa, popolo, la gente. La massa, capito? No? La massa, sì. Allora, tra Froci, parolacce, cose che dita. Adesso pure Radio Maria. Sì, Radio Maria noi abbiamo sempre... Parenzo la pensa in modo diverso. No, non ha capito. Radio Maria, no. L'otto per mille. Allora, io do i soldi a chi mi pare. Radio Maria non è che manda quelle cose. Però dico io, state un po' esagerando, no? Quel Taormina che offende quel carro lì. Che offende quel medico che si è qualificato. Hanno combattuto, hanno fatto una battaglia meravigliosa radiofonica, Taormina e l'ascoltatore. Come no? Infatti gli ha detto testa di cazzo, gli ha detto questo. Ma voi vi dovete mettere in testa, no? Sì. Che c'è gente che ascolta. Sì. Cioè, ma voi siete due persone squisite fino a poco tempo fa. Invece, che siamo diventati mostri, non ho capito. Adesso praticamente voi state un po' trascendendo, no? Sì. Sempre con queste cose qui e quello. E il prete di se mi ha fatto l'amore, quell'altro, di questo, di quell'altro. Ma secondo te, no? Una persona intelligente, dimmi, perché lo sei, no? Secondo te, Ma questo è il modo di comunicare agli altri una sensazione o quello che è l'attualità? Con tutti i problemi che ci abbiamo oggi, con sti balordi che vanno in giro a raccontarci le stupidaggini. Ti abbraccio fortissimo, Fabio da Milano. No, ascolta, per concludere. Devo concludere, Franco, no, ti richiamerò. Aspetta, devo concludere, aspetta. Ti richiamerò. C'è la sigla, Fabio da Milano, 10 secondi. Fabio. No, era per confermare, lei parlava prima del senatore Colombo. Io ho avuto il piacere di conoscerlo a Parigi, a un ricevimento dell'ambasciatore d'Italia. E che ha fatto? Nell'82 quando c'era in vista allora? Il presidente Pertini, voglio dire, io ero giovanissimo, non ha fatto niente ovviamente, però l'ho conosciuto proprio direttamente. E allora? Gli atteggiamenti erano di tutto quelli di ma quelli che c'entrano gli atteggiamenti? Ci ha provato o no? Ma no, certamente che non ci ha provato. E allora che lei, rimangono però chiacchiere, dire, dai. Però voglio dire, non, l'atteggiamento era quello evidente. La ringrazio, ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Se devi dire qualcosa, io ti do un microfono. Il signor Beppe Grillo aveva detto che i centri commerciali ne faceva a Parma 9.000 metri quadrati, ha promesso 1.000 euro per uno. Dica a Roma se l'è invertati, ancora credete le favole? Ciao! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Si è lodato Gesù Cristo, sempre. Radio 24. La passione si sente.